fare del giro. Che bellezza, che brio, son pur felice. Amor per me non chiude suoi tesori e manda questo cuore perché sia lieto un amator novello, più dell'empio Ruggero, leggiadro e bello.